Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. 36 esperti internazionali a confronto per parlare di geopolitica ed economia internazionale. Iniziata oggi a Udine la terza edizione del festival Open Dialogues. Chiuso in via precauzionale il tratto dell'autostrada A23 in direzione sud tra Pontebba e Carnia, attivati i sensori posizionati dopo la frana della scorsa Pasquetta. Maggiore consapevolezza del passato e responsabilità verso il futuro è il bagaglio con il quale sono rientrati a Trieste i 100 studenti che hanno appena concluso il viaggio Pro Memoria Auschwitz. Intitolato alla portatrice carnica medaglia d'oro al valor militare Maria Plotzner-Mentil, il comprensorio militare della Comina, che ospita il centro addestrativo multifunzionale Ariete, unica struttura della difesa attualmente intitolata a una donna. Nuova casa per il villaggio per crescere di San Giacomo a Trieste, uno spazio per sostenere lo sviluppo dei più piccoli e aiutare i genitori nelle prime fasi di vita dei figli. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Daniele Letti, G di Elisabetta Zaccolo in studio per la seconda edizione del nostro giornale radio. Al via oggi a Udine la terza edizione di Open Dialogues for the Future, una due giorni per parlare di geopolitica ed economia internazionale con 36 esperti da tutto il mondo in un evento organizzato dalla Camera di Commercio Pordenone Udine in collaborazione con la Fondazione Ambrosetti. Chiesa di San Francesco a Udine gremita per il terzo ritorno di Open Dialogues for the Future, ciclo di incontri organizzato dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine per capire dove sta andando il mondo e, per dirla con il direttore scientifico Federico Rampini, uscire dalla modalità panico permanente e andare in profondità. Mattinata introduttiva che guarda lo scenario geopolitico globale. Citando Kissinger, l'editorialista del Corriere ha definito Trump uno di quei personaggi quasi incidenti nella storia che però servono a segnalare che è finita un'epoca con le sue finzioni e illusioni. L'Europa deve organizzarsi una volta per tutte perché il fidanzato americano ci sta lasciando e allora dobbiamo trovarne un altro, o meglio essere donne indipendenti. L'appello dell'ex ministra francese della difesa, professoressa alla Bocconi, Sylvie Goulard. In quale azienda, parlando dell'Europa, afferma non si sa chi è il capo e chi parla? L'America non ci ha semplicemente lasciato soli, è contro l'Europa in questo momento, ha affermato Natalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali, e dobbiamo fare uno scarto mentale pensando che stiamo già vivendo in un film in cui alla fine i buoni potrebbero non vincere. Secondo Giovanni da Pozzo, presidente della Camera di Commercio Pordenone Udine, bisogna avere nuove chiavi di lettura, nuove regole di ingaggio e essere meno banali, non dividersi in tifoserie, chi pro e chi è contro Trump, ma capire qual è l'evoluzione che andrà a impattare sull'Italia e su una regione piccola come il Friuli Venezia Giulia. Pomeriggio dedicato all'Europa e allo scenario geoeconomico, si parlerà anche di Friuli Venezia Giulia, crocevia del continente, nella sede di Fondazione Friuli. Domani, 7 marzo, ci si concentrerà infine sui rapporti atlantici e nella sede dell'università su giovani, competitività e imprese. Il coordinamento tematico è a cura di The European House Ambrosetti. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Da questa mattina è stato chiuso in via precauzionale il tratto dell'autostrada A23 in direzione sud tra Pontebba e Carnia. La chiusura è stata disposta da Autostrade per l'Italia dopo che i sensori posizionati sul costone roccioso da cui nel giorno di Pasquetta del 2024 una frana aveva fatto cadere numerosi massi sulla carreggiata hanno segnalato dei movimenti in atto che superano la soglia di attenzione, anche se non ci sono stati distacchi di materiale. Attualmente chi viaggia verso Udine deve uscire a Pontebba e percorrere la statale 13 prima di rientrare in autostrada strada a Carnia. E proprio all'uscita di Pontebba si registrano code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. I temi dell'economia, saldatrici robotizzate, esoscheletri per i lavoratori, la grande gru ordinata che sarà presto in opera, sono alcune delle novità che riguardano l'impianto di Monfalcone della Fincantieri. Tecnologie che consentiranno di aumentare i blocchi che si costruiscono, sollevano e saldano nel bacino, così che vi si potranno costruire navi molto più grandi. A descrivere l'evoluzione di Monfalcone è l'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pier Roberto Folgero, sottolineando che si sta lavorando per utilizzare sequenze di produzione per aumentare la produttività. Un impianto che andrà valutato anche per gli impatti generati per la città, sia da un punto di vista logistico, sia dal punto di vista dei nostri lavoratori in quella città, ha specificato Folgero, che sottolinea anche come tutte le volte che Fincantieri prende un ordine, il 90% di quell'ordine diventa immediatamente contenuto locale, in più crea a sua volta un moltiplicatore sul contenuto locale. Considerando la recente commessa promessa assicuratasi da 9 miliardi circa, l'indotto vivrà un momento storico a Monfalcone. Fincantieri in Friuli Venezia Giulia vale 3-4 miliardi di indotto l'anno, quindi pensiamo, dice Folgiero, ci sia una storia di successo nel rapporto con la regione. Lo stato di salute dei consorzi di bonifica all'attenzione del Consiglio regionale. Tra fondi PNRR statali e regionali i finanziamenti non mancano, ma le lentezze burocratiche non facilitano la corsa per far fronte da una parte al rischio siccità e dall'altra alla riduzione delle perdite d'acqua. Il paradosso delle importanti perdite d'acqua è quello della mancanza di acqua a causa della siccità. Sono due delle sfide principali con cui hanno a che fare i consorzi di bonifica del Friuli Venezia Giulia. Da una parte la corsa alla sostituzione di infrastrutture vecchie, ormai alla fine della loro vita operativa, dall'altra la corsa per realizzare nuovi invasi, cioè le vasche capaci di stoccare l'acqua che arriva quando ce n'è in abbondanza, per essere poi usata quando serve. Il Consiglio regionale stamattina ha svolto un'ampia audizione conoscitiva. La Commissione Agricoltura e la Commissione Ambiente hanno ascoltato vertici e tecnici dei tre consorzi di bonifica della regione, Pianura Friulana, Meduna Cellina e Venezia Giulia. E una delle problematiche emerse nell'affrontare le due emergenze è quella della lentezza burocratica. Un anno e mezzo, ad esempio, per ottenere una variazione al piano regolatore di un comune per far avanzare un progetto. A questo si aggiunge il presidio di un territorio delicato dal punto di vista idrogeologico. L'inverno è stato avaro di piogge, si spera ora nelle precipitazioni invernali, ma non siamo affatto al riparo dal rischio siccità nella prossima estate. La crisi dell'estate 2022 ha messo in cantiere opere non ancora concluse. Il consorzio della Pianura Friulana al momento stima poi fra il 20 e il 25% le perdite di acqua. Antonio Cajazza, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le donne la categoria di lavoratori maggiormente esposte al rischio di sostituzione a causa dell'intelligenza artificiale. Ad evidenziarlo sono i dati del Focus Censis Confcooperative. L'esposizione all'intelligenza artificiale conferma un acuirsi del gender gap dal momento che le donne risultano più esposte rispetto agli uomini. Rappresentano infatti il 54% dei lavoratori ad alto rischio di sostituzione e il 57% di quelli ad alta complementarietà. Da qui al 2035, infatti, l'intelligenza artificiale porterà una crescita del PIL fino a 38 miliardi, pari all'1,8%, ma 6 milioni di lavoratori sono a rischio sostituzione, una stima che porta il numero a 130.000 per il Friuli Venezia Giulia, mentre 9 milioni potrebbero vedere l'intelligenza artificiale integrarsi con le loro mansioni per complessivi 15 milioni di lavoratori sul totale degli esposti. Le professioni più colpite dalla sostituzione sono quelle intellettuali automatizzabili, ad esempio le professioni contabili. Le professioni ad alta complementarietà includono anche avvocati, magistrati e dirigenti. I dati indicano che l'intelligenza artificiale pone una nuova sfida all'integrazione delle donne nel mondo del lavoro e che la persona va messa al centro del modello di sviluppo, con l'intelligenza artificiale al servizio dei lavoratori e non viceversa, ha commentato Mirella Berdini, coordinatrice regionale della Commissione dirigenti cooperatrici di Confcooperative regionale. Sotto il profilo della partecipazione delle donne al mondo del lavoro si registra intanto una crescita costante in regione. Sono sempre di più le donne che ricoprono incarichi di responsabilità. Nel comparto cooperativo sono passate dal 52% del totale degli addetti nel 2016 al 59% di oggi, secondo uno studio effettuato da Confcooperative Friuli Venezia Giulia tra le 500 cooperative associate. Sono donne il 28% dei presidenti di cooperative, erano il 24% nel 2016, e il 31% dei componenti dei consigli d'amministrazione, contro il 27% di 10 anni fa. Inoltre, si segnala che in Friuli Venezia Giulia il 32,4% delle cooperative ha una maggioranza di soci donne, il 44,4% dei soci delle cooperative sono donne e il 57,5% degli occupati, tra i migranti extra UE, sono donne. Secondo le stime dell'Istituto Europeo per la Parità di Genere, se l'Italia riuscisse ad aumentare il tasso di occupazione femminile portandolo al livello di quello maschile entro il 2050, il prodotto interno lordo del paese crescerebbe del 12%. Torniamo alla cronaca, perché un triestino di 40 anni è ricercato dopo l'omicidio di un anziano di 80 anni avvenuto a Limena, in provincia di Padova. Il corpo della vittima è stato trovato nella sua abitazione, chiuso nell'armadio. Sentiamo il servizio di Antonello Profita, della redazione di Venezia. Bocche cucite. Alle due vicine di casa i carabinieri hanno detto di non parlare con la stampa, ma ieri avevano raccontato che la vittima, l'ottantenne Franco Bernardo Bergamin, ospitava da un paio d'anni un certo Alessio, origini triestine, sui 40 anni, e che da almeno una settimana è sparito. I carabinieri lo stanno cercando, è lui al momento il principale indiziato. Una delle sorelle di Franco Bergamin ieri si è rivolta ai carabinieri perché da giorni non aveva sue notizie. I militari dell'arma giunti nella palazzina di via Giovanni XXIII a Limena, lungo la Valsugana, hanno trovato in ordine l'appartamento al primo piano, ma la porta di una stanza chiusa e sigillata con del nastro adesivo. All'interno un armadio e lì, chiuso in due sacchi di plastica, il corpo ormai in decomposizione della vittima, le caviglie legate con laccetti da elettricista. Lesioni alla testa? Una indiscrezione non confermata dal colonnello Gaetano La Rocca, comandante del reparto operativo di Padova. Al momento non siamo in grado, come ho detto, di stabilire le cause della morte, quindi su questo dovrà aiutarci il medico legale, che al momento non ha trovato delle evidenti ferite sul corpo. Dal primo esame, comunque, la morte risalirebbe ad almeno una settimana fa, forse più. Alle 12.41 e 30 secondi siamo al tempo, cielo sereno sulla regione, queste le temperature delle 11. A Trieste 12 gradi e mezzo, a Pordenone 14 e mezzo, a Udine 15 e mezzo, a Gorizia 17. Sul Piancavallo 9 gradi, a Sappada 9 e mezzo, a Forni di Sopra 12 e mezzo, a Tarvisio 13 e mezzo, a Tolmezzo 14. Sul Monte Lussari 7 gradi, sul Monte Zoncolan 8, sulla costa a Grado 11 gradi, a Lignano 13 gradi e mezzo. Le previsioni dell'ARPA regionale: oggi pomeriggio in serata avremo cielo sereno, venti deboli a regime di brezza. Domani ancora cielo sereno, temperature massime oltre la norma del periodo. Partiti una settimana fa dalla risiera di Trieste alla volta di Cracovia per visitare i campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, 100 studenti sono appena rientrati dal viaggio della memoria, organizzato grazie al sostegno economico dell'Ateneo Giuliano e dei comuni del territorio. Molto spesso diciamo che la storia non deve ripetersi, ma questo è una cosa che noi dobbiamo attivamente fare. È l'uomo che non permette alla storia di ripetersi, e quindi questo è il mio obiettivo, è questo che io mi porto a casa. Consapevolezza del passato, responsabilità per il futuro è il bagaglio con il quale sono tornati a Trieste i 100 studenti che hanno concluso il viaggio Pro Memoria Auschwitz organizzato da Deina FVG, l'associazione che promuove cittadinanza attiva e conoscenza della storia. Partiti una settimana fa dalla risiera di San Saba a Trieste, campo di concentramento nazista, direzione Cracovia per visitare Auschwitz e Birkenau, il quartiere ebraico, l'ex ghetto nazista e la fabbrica di Schindler. Tra gli studenti Gaia, il bisnonno partigiano, la moglie Angela venne uccisa proprio qui in risiera. Di quello che è successo ai tuoi bisnonni in famiglia si parla? Sì, mia mamma, io e la cugina di mamma ne parliamo assolutamente, perché comunque vogliamo risalire a tutta quanta la storia, vogliamo scoprire. Questo travagliato Novecento forse non è più così sconosciuto. Dino Perco, referente dell'associazione. Il 27 gennaio, il 25 aprile, pensiamo al 10 febbraio, sono date che magari appunto che arrivano dall'alto, sono quasi imposte. Fare questi viaggi permette invece di riempirle queste giornate, riempire letteralmente le piazze. Pensiamo appunto a dei giovani che fanno un viaggio appunto nell'ex lager di Auschwitz-Birkenau e pensare adesso al 25 aprile. Prima di partire i ragazzi hanno partecipato ad un ciclo di incontri laboratoriali sulla memoria organizzati dall'Università di Trieste. La mia famiglia è una nostra tradizione venire qua ogni 25 aprile. In generale se ne parla del Novecento in famiglia, ma non credo sia il primo luogo in cui bisogna parlarne. Credo che sia la scuola che deve farsi carico, deve consapevolizzare tutti su appunto quello che è successo. 170 i candidati, 100 gli studenti selezionati. A finanziare il viaggio, abbassando la quota di partecipazione, l'università, ma anche i comuni di Duino, Aurisina e Sgonico. Per me è stato molto importante che il mio comune andava a finanziare questo progetto, perché mi fa capire che investe sui giovani, investe sulla memoria, investe soprattutto su quello che riguarda il suo futuro. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Uno spazio dedicato alle famiglie, facilmente accessibile, senza barriere architettoniche, visibile dalla strada, gratuito e ad uso esclusivo delle attività del villaggio per crescere di San Giacomo a Trieste. La nuova sede di una delle due strutture è stata inaugurata questa mattina. Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, come quelli fondati dal Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini, una onlus nata a Trieste nel 2018 dalla volontà di professionisti dell'infanzia. In città ci sono due spazi, quello di San Giacomo ha appena inaugurato la nuova sede in via Castaldi, vicino Piazza Garibaldi. Ilaria Perini, coordinatrice del Villaggio per Crescere di via Castaldi. Uno spazio dedicato a famiglie con bambini nella fascia 0-6 anni, ma con un focus specifico sullo 0-3, quindi sui primi 1000 giorni di vita. È uno spazio gratuito ed universale, quindi non ci sono requisiti per potervi accedere. L'unico requisito è quello di potersi prenotare attraverso un numero e le famiglie possono frequentarlo dal lunedì al venerdì, 2 orette al mattino, 2 orette al pomeriggio. Uno spazio prezioso, ce ne vorrebbero di più e con orari di apertura più ampi. Giorgio Tamburlini, pediatra e presidente del Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini. È un problema di personale e di risorse, quindi noi non è che ci tiriamo indietro, se arrivano nuove risorse siamo pronti a farlo. Siamo sempre più convinti del nostro compito, che è quello di sostenere oggi i genitori nel loro ruolo, perché c'è bisogno di genitori forti per crescere bambini e bambine capaci e forti. A sostenere i costi, anche gli stipendi delle educatrici, qui e negli altri 20 villaggi in tutta Italia è la Fondazione Generali. Emma Ursic, The Human Safety Net, Fondazione Generali. Sono, penso, 6 anni ormai che lavoriamo insieme al CSB. Secondo noi è un modello di lavoro assieme ai genitori per i primi anni, che sono importantissimi proprio per lo sviluppo della persona. Questo è diventato un esempio che il territorio di Trieste esporta anche in altre regioni. Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora torniamo sulla scomparsa avvenuta ieri dello storico telecronista Rai Bruno Pizzul, i cui funerali, ricordiamo, si celebreranno domani alle 14.30 nel Duomo di Cormons. Abbiamo sentito per un breve ricordo il collega di Rai Sport, anche lui friulano, Franco Bortuzzo. La prima cosa che mi viene in mente è che quando lui entrava, già dalla prima volta che ci siamo visti, che lui mi diceva Mandi, ed è una piccola cosa che però fa sempre effetto per un friulano che poi ormai da 20 anni lavora a Milano, quindi era bellissimo già questo. E poi il nostro rapporto iniziò perché appunto lui, non si sa spesso, oltre a fare calcio lui faceva anche le bocce e io bene o male divenni all'inizio l'erede della parte telecronica delle bocce al posto suo, quindi lui mi segnò un po' il lavoro, la differenza fra le bocce friulano-venete e quelle piemontesi, la novetta, e fu gentilissimo perché mi diede tutti quanti i numeri di telefono delle spalle tecniche, fu veramente gentile, disponibile, quello che fondamentalmente secondo me è sempre stato. Quando lui finì poi andò in pensione, io un paio di volte lo volli portare in Friuli proprio per fare un paio di incontri e chiaramente era previsto un gettone di presenza anche per lui. Lui non lo volle avere, cioè non gli interessava proprio, mi disse andiamo a bere qualcosa in osteria dopo e chiaramente me lo disse il friulano. Questo per me era Bruno. Il comprensorio militare della Comina a San Quirino da oggi porta il nome di una donna simbolo della Prima Guerra Mondiale. È stato intitolato alla portatrice Carnica Medaglia d'Oro al Valore Militare Maria Plotzner-Mentil il comprensorio militare della Comina che ospita il centro addestrativo multifunzionale Ariete, unica struttura della difesa attualmente intitolata una donna omaggio a una figura simbolo delle eroine che trasportarono a spalla nelle loro gerle vettovaglie e munizioni verso le trincee nella Prima Guerra Mondiale. La cerimonia si è svolta stamani alla presenza della sottosegretaria alla difesa Isabella Rauti che ha promosso l'iniziativa per celebrare la festa della donna e il 25esimo anniversario dei primi arruolamenti femminili nelle forze armate italiane. E a tutte loro, ma anche al personale civile della difesa che ha preceduto l'ingresso delle donne nelle forze armate, voglio dedicare questo 8 marzo immaginando un filo rosso ideale che leghi insieme le donne di allora, le portatrici della Prima Guerra Mondiale e le nostre donne in uniforme impegnate in patria ma anche impegnate all'estero nei moltissimi teatri operativi dove sicuramente l'elemento femminile rappresenta un valore aggiunto in grado di dialogare con la popolazione femminile locale in grado anche di percepirne i reali bisogni. Presenti anche i familiari di Maria Plotzner tra cui le pronipoti Daniela e Cornelia arrivate appositamente dal Lussemburgo. Che cosa significa per voi? Tanto, perché da piccoli già il papà ci raccontava sempre la storia della nostra bisnonna. Avevamo sempre la nonna in testa. L'emozione oggi? Sì, tanta. Sì, tanta. Il comprensorio militare è un'area di 87 ettari tra Pordenone e San Quirino, diventerà la prima delle caserme verdi dell'esercito. Progetto da 186 milioni di euro, sarà costruita con i più alti standard energetici e avrà anche un'area addestrativa, alloggi, asilo nido, ristoranti, negozi e un'ampia area sportivo-ricreativa aperta anche al pubblico con piscina, campi polivalenti e una pista ciclabile. Partenza lavori fine 2026. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Arriva questa sera a Trieste, siamo agli spettacoli, arriva questa sera a Trieste alle 20.30 al Teatro Bobbio, in replica fino a domenica, Calcoli, l'arte dell'inganno, commedia prodotta dalla Contrada e scritta da Gianni Clementi con la regia di Blas Rocarei, che ne è anche protagonista. Sentiamo da lui un'anticipazione. Quello che posso dire è un lungo incipit, diciamo, che prende più o meno la prima metà dello spettacolo, è un grande politico, uno squalo, col pelo sullo stomaco, che si reca in una baita in mezzo alle montagne con una soubrette con cui vuole avere un weekend di fuoco. La baita è del suo segretario che gli illustra tutti i segreti della baita, e mentre loro stanno lì tutti belli contenti, piomba un personaggio misterioso col passamontagna, la pistola eccetera, con uno spiccato accento albanese, che li sequestra, li lega alle sedie, li picchia, li fa insomma varie violenze sia verbali che psicologiche che fisiche, dove vengono coinvolti sia io che la soubrette che il segretario. Però questo personaggio misterioso non è quello che sembra. Dopo un po' si scoprirà non solamente che non è quello che sembra, ma anche che ha avuto un rapporto con me abbastanza profondo molti molti anni prima, e che io non l'avevo minimamente riconosciuto, e lui ha subito un torto che gli ha rovinato la vita da parte mia ed è lì per farmela pagare. Ecco, è in piena campagna elettorale il politico ed è un affresco abbastanza impietoso e lugubre di quello che è certe volte la politica italiana, e noi lo sappiamo bene. Questo spettacolo nasce 20 anni fa, io l'ho fatto come attore 20 anni fa, adesso l'ho ripreso come attore e regista perché ne sentivo ancora veramente ancora di più l'urgenza rispetto alla prima edizione. Gli altri attori sono Andrea Lolli, Monica Rogledi e Pietro Bontempo, io curo anche la regia, e noi siamo molto molto contenti dello spettacolo perché è davvero forte, bello. Inizia come commedia in cui si ride moltissimo, poi si ride un po' meno e poi si ride di nuovo alla fine. Siamo allo sport. La Triestina Nuoto si prepara ad affrontare la piscina Bruno Bianchi il weekend della Coppa Los Angeles 2028 di tuffi, in programma fino a domenica, e lo farà sulla scia dell'entusiasmo che ha raggiunto il gruppo dopo la chiamata in nazionale di uno dei suoi prospetti più interessanti. Lo staff tecnico della nazionale italiana giovanile, infatti, ha convocato il 15enne Lorenzo Menis, reduce dai 3 argenti conquistati ai campionati italiani un mese fa, per l'Otto Nazioni, uno storico incontro dedicato alle rappresentative nazionali giovanili che si svolgerà ad Aquisgrana dal 21 al 23 marzo. Da domani Menis e compagni, 7 in tutto i convocati, sfideranno dunque alcuni tra i grandi nomi dei tuffi italiani, pronti a iniziare a cercare di avvicinarsi al pass per i grandi eventi internazionali della stagione, europei e mondiali. Il maestro Stefano Stefana, il fondatore del judo Kuroki Tarcento, è stato nominato presidente del comitato di gestione della Scuola Nazionale Federale della Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate e Arti Marziali. La Scuola Nazionale si occupa della formazione dei tecnici e dei dirigenti delle discipline comprese nella federazione, tanto quelli olimpici, judo e lotta, che di quelli come il karate, che lo sono stati e ambiscono a ridiventarlo, oltre che del progetto Sport a Scuola. Era l'ultima notizia del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Samantha Gon, per la parte tecnica in regia Paolo Cassano e Bruno Montevecchi. Da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.